Quel giorno lui si era svegliato strano, pure il bastone gli tremava in mano, ma disse: faccio un salto giù d'Augusto, compro il giornale e vengo a casa presto. Non salutò nemmeno Gigi il macellaro, guardò Trilussa con sorriso amaro e Ponte Sisto che non se vedeva per le gran macchine e gli dispiaceva. Passò il semaforo per dare un'occhiata al fiume, le scalette scese piano piano e là s'accese mezzo sigaro toscano. Se mise 2 minuti a riposare, salutò il pescatore e s'alzò in piedi. Per risalire sul ponte, e che fatica! E ma lui, e non si sentiva vecchio mica, fu colpa del semaforo boiaccia. E rivide Roma bella sotto il sole d'oro, e giù per fiume scende il barcarolo, e vide pure tante tante stelle, erano tutte belle sciumachelle. Poi guardo in cielo e lenta alzo la mano, scanso la nuvola per poter guardare quel sole che oramai troppo lontano dava un saluto all'ultimo romano.